Dopo di avere nei giorni precedenti compiuto, per così dire, una marcia di avvicinamento a Federico Barbarossa. Con oggi passiamo alla considerazione di alcuni aspetti non meno importanti, ma per varie ragioni meno considerati dalla storiografia negli ultimi tempi, o più discussi dalla storiografia e quindi più in questione. Purtroppo fra le parti, fra gli aspetti meno considerati, c'è proprio quello della politica meridionale di Federico Barbarossa. Come e perché questo matrimonio tra Costanza d'Altavilla e Enrico VI ed Enrico? Come e perché questa ripresa di una politica che ha dietro di sé addirittura dei secoli, dagli imperatori della dinastia sassone? E soprattutto, e qui ritorniamo a quanto è stato dibattuto dalla storiografia tedesca, ma non soltanto tedesca, che cosa storicamente ha significato questo? Come mai dalla storia e per la storia del XII secolo è accaduto che si è giunti a questo matrimonio? Problema storiografico e storico insieme, complesso di eventi che esigono una spiegazione. Federico Barbarossa altrimenti resterebbe quel sovrano buono per i tedeschi, cattivo per gli italiani, ma in sostanza non storicamente approfondito. Per proporre questi problemi, io e l'Istituto abbiamo pregato il professor Nicola Cilento dell'Università di Salerno, che dopo la morte del nostro comune maestro, il professor Ernesto Pontieri, non esito a dire il più competente studioso di problemi dell'Italia meridionale nella storiografia italiana. Lo dico facendo violenza alla sua modestia, con affetto di compagno dell'università. Abbiamo studiato insieme negli stessi anni, con gli stessi maestri, con comuni ricordi di lavoro, ma lo dico soprattutto per antica stima nei suoi riguardi, stima che nasce dalle nostre conversazioni di giovani studenti d'università e che si è venuta approfondendo negli anni di comune lavoro all'Istituto Storico Italiano per il Medioevo e dopo. Dicevo storico dell'Italia meridionale, ai quali egli, alla quale egli porta affetto nativo, perché è meridionale come me, ma porta soprattutto il desiderio di approfondire la comprensione dell'Italia meridionale. Che cosa è quest'Italia meridionale nell'Italia? E che cos'è quest'Italia meridionale nel Medioevo, nell'Italia del Medioevo? Naturalmente non da oggi è capitato che egli abbia dovuto affrontare quindi direttamente o indirettamente il problema di cui oggi si parla. Egli ha studiato a suo tempo il frazionamento dell'Italia meridionale tra Longobarda e Bizantina, studiando Capua, il principato di Capua, la genesi di questo principato e i problemi che esso comporta. Ha studiato la sua e mia Napoli nella civiltà napoletana nel Medioevo, ha studiato vari aspetti della storia e della cultura meridionale, e qui a un italiano non può non incombere l'impegno di dover ricordare il suo lavoro sul Placito Capuano, cioè su quel Placito Cassinese nel quale per la prima volta emerge un periodo in lingua italiana. Per questo io gli sono sinceramente grato, anche a nome dell'Istituto, per aver accettato l'invito a venire qui da noi, per aver accettato di affrontare uno dei problemi fra i più complessi e interessanti del nostro incontro, e soprattutto di essere venuto passando sopra alcune questioni personali, perché è venuto fra noi anche se ieri doveva festeggiare il suo compleanno. Quindi lo ringraziamo e dopo una breve traduzione in tedesco lo pregheremo di prendere la parola. Professor Cilento, ist jetzt meiner Meinung nach der beste Kenner der Geschichte Italiens, Süditaliens im Italter. Er hat in Neapel studiert mit Ernesto Pontieri, der auch mein Meister gewesen ist. Und er hat die Probleme der Kultur und der Geschichte Süditaliens immer und tüchtig und fleißig und tief studiert. Natürlich, er hat daher hat er die Probleme, die in diesem Vortrag betrachtet werden, durchaus studiert und mit eigenen Resultaten, ich meine, und überhaupt kann er auch wichtige Hinweise für eine weitere und ich meine lebhafte Diskussion uns bieten. Bitte schön. Prego, io ti prendo la parola. Io ti ringrazio e ti faccio credito di tutte quelle cose che hai detto a titolo personale che forse sono eccessive. No, ti ringrazio. Giudicheranno gli ascoltatori. Allora, signore e signori, dobbiamo partire dal matrimonio di Costanzo, che fu preceduto da una tregua di 15 anni tra Federico Barbarossa e Guglielmo II, re di Sicilia, la tregua negoziata a Venezia il 24 luglio del 1177, concordato poi segretamente nel trattato di pace e di amicizia sottoscritto ad Augusta il 29 luglio del 1184. Il matrimonio della trentenne Costanza d'Altavilla, figlia postuma di Ruggero II e zia di Guglielmo, con il 19enne Enrico d'Hohenstaufen, fu celebrato a Milano con grande fasto il 27 gennaio del 1186 su di un palco eretto in monasterio Seu Brolio Beati Ambrosi. La Ambrosioni ci ha detto poi che fine fece il legno di questo palco. La sponsa speciosa Nimis, come la definisce Goffredo da Viterbo, con un'espressione biblica, letteraria, ma che probabilmente risponde a verità, si potrebbe fare una parentesi e forse la farò in una certa occasione nel corso del discorso, oltre alla dote convenuta in 40.000 libbre d'oro, che è una somma incalcolabile, già versata ad Augusta, al tesoro imperiale, e a un corredo favoloso che impegnò per il trasporto 150 somieri, vantava anche il diritto ereditario di successione alla monarchia siciliana che Guglielmo le aveva fatto solennemente riconoscere dai baroni del regno convocati a Parlamento a Troia prima della sua partenza. Con questo matrimonio il re normanno faceva una scelta che rimane per molti aspetti tuttora incomprensibile, perché rinnegava radicalmente la politica avversa all'impero che era stata sempre perseguita non solo dalla sua dinastia, ma anche e da secoli da quella complessa realtà politica che era stata l'Italia meridionale pre-normanna. D'altro canto, quell'alleanza matrimoniale, con le conseguenze che implicava, può ritenersi l'atto conclusivo della secolare politica degli imperatori franco-germanici rivolta a conquistare il sud della penisola. Il Mezzogiorno, scriveva già il Morgan nel 1936, il Mezzogiorno d'Italia, per il cui miraggio si erano invano logorate le migliori forze dell'impero, cadeva ora in mano degli Svevi solo per una fortunata azione diplomatica, senza che essi avessero sparso per acquistarlo neppure una goccia di sangue tedesco. Una suditalienische Kaiserpolitik può essere assunta come parte a sé stante e del tutto autonoma dal più ampio e complesso contesto di quella questione storiografica che è stata premessa a questo incontro, da quella questione storiografica che prese il suo avvio circa la metà del secolo scorso dalla Siebel-Fickerschen controversa e che è durata almeno fino alla metà di questo secolo, fino all'Insel, passando attraverso il suo più autorevole esponente che è stato Georg von Below, appassionato fautore della scuola del Siebel. Questo indirizzo, misurando con un metro rapportato a concetti e a ideologie di tempi successivi, sotto l'influsso politico-culturale dell'idea del grande Stato nazionale, ha ritenuto la politica italiana dell'impero medievale germanico lesiva degli interessi tedeschi nelle terre ad oriente dell'Elba, responsabile di ritardi e di sviluppi troncati e causa prima di quel particolarismo che polverizzò la nazione germanica in quel singolare monstrum quale apparve al Pufendorf la Germania moderna. Dall'altra parte si riconosceva all'impero, soprattutto attraverso i suoi interventi nell'Italia meridionale, di aver fermata non solo la invasione islamica, ma anche la ripresa dell'espansione di Bisanzio, arrestando così una possibile islamizzazione oppure la orientalizzazione dell'Occidente, anche se da ultimo l'infausta unione, fra virgolette, con la monarchia siciliana aggravò la distrazione dell'impero provocando il definitivo fallimento dello Stato tedesco. Si tratta, come è ovvio, di prospettive storiografiche segnate da quel tipo di errore che i filologi chiamerebbero dell'usteron proteron, comune del resto alla storiografia risorgimentale italiana, che dal Balbo in poi rimproverava al Medioevo italiano la rissa fra le città comunali e le invidie dei principi. Quel municipalismo, insomma, che pure il Guicciardini aveva definito e riconosciuto come il modo di vivere che è più secondo l'antichissima consuetudine e inclinazione d'Italia. Prospettiva arbitraria e in fondo moralistica, in cui la ragione politica tendeva a forzare le ragioni della storia e precludeva la comprensione di problemi e di fenomeni connessi alla formazione di comunità territorialmente ristrette nel piccolo Stato, alla ricerca nell'universale disordine di un più ristretto e vitale principio di ordine, che oggi assumono una impostazione più corretta attraverso il parametro storiografico del particolarismo, o se si vuole del localismo, e cioè attraverso una visione storica che non risulti deviata o sopraffatta da fattori esterni inoperanti, ma sia concentrata e contenuta nell'analisi delle specificazioni di ogni singolo ambiente, con una metodologia sulla validità della quale hanno rivolto la loro attenta riflessione Giorgio Falco e Werner Chegi. E tuttavia il dibattito storiografico sulla italienische Kaiserpolitik, oltretutto esemplare ai fini didattici, ha contribuito a mettere a fuoco alcuni problemi e momenti fondamentali anche del Medioevo italiano, quali il rapporto fra impero e papato, fra impero e comuni e fra i due imperi, e anche il rapporto tra l'impero occidentale e l'Italia meridionale. Ma quest'ultimo problema non è stato ancora del tutto trattato in una visione d'insieme che attraverso le varie fasi del suo sviluppo metta in luce le connessioni con l'ambiente etnico-politico in cui si svolsero le campagne imperiali, le sue mutevoli reazioni di collaborazione o di ostilità, le ragioni delle medesime. Tema dunque piuttosto trascurato anche per quella Tiefgreifen der Cäsur che, quali che ne siano le ragioni, non ha finora, e perciò io sono grato al professor Manzella, ai coordinatori che hanno voluto inserire questo tema nel convegno, non ha finora consentito una più intima connessione della storia dell'Italia meridionale, almeno fino alla fondazione del Regno, nel quadro più ampio disegnato dalla storiografia medievistica dell'Italia settentrionale e mediana. Manca dunque l'analisi degli interventi dell'impero franco-germanico nel sud della penisola, visti, come suol dirsi, nella prospettiva dell'altra parte, ma non certo manca il lavoro di ricerca, l'accumulo della informazione, quale può assumersi persino soltanto dalla serie degli Jahrbücher e delle Gesta Imperi, e per le interrelazioni talvolta marginali dai molti contributi della medievistica tedesca su problemi particolari, quali l'influsso indicato abbastanza di recente delle spedizioni militari in Italia sullo stato tedesco dell'Alto Medioevo. Pure di recente il Brühl ha ricostruito gli itinerari con le conseguenze ad essi connesse che portarono gli imperatori anche nelle estreme regioni del sud. La via di accesso preferita non fu l'Appia antica da Roma per Pontecorvo e Capua, dove si innestava con la via Campana per Pozzuoli, oppure la Domiziana lungo la costa tirrenica che si andava impaludando alle foci del Clanis e nella laguna di Pacia, ma l'Adriatica, che penetrando negli Abruzzi da Valva si staccava dalla Valeria e per Sulmona raggiungeva il nodo di Sernia, da cui nascevano le diramazioni a sud per Boiano e Benevento, a est per la valle del Sangro fino al passo di Vinchiaturo, non c'è una carta, con diramazioni per la Puglia e l'interno del Sannio, e ad ovest per Atina e Capua. Percorsi del resto indicati sia nella Costituzione Lotariana dell'846, l'expedizione contra Sarracenos facenda, sia nella Constitutio Promotionis Exercitus di Ludovico II dell'anno 865. Le punte massime di questi Italian Struges furono raggiunte da Ludovico II a Oria, nella penisola salentina, un po' dopo il marzo del febbraio dell'871, e da Ottone II a Capo Colonna in Calabria, a 10 km a sud di Crotone, nel luglio del 982. Fu proprio l'aspetto assurdo di queste mete lontane che ancor più si allungavano nella geografia del tempo verso la Puglia siculosa e la Calabria impervia, raggiunta da Taranto lungo la costa ionica desolata della Lucania, fu appunto questo itinerario che colpì qualcuno dei contemporanei, fautore ante litteram della interpretazione negativa della politica imperiale italiana. Recentemente, nel 1956, Reinhard Venskus, trattando la concezione storico-politica di Bruno di Querfurt, ha sottolineato la critica severa che questo monaco di Sant'Alessio sull'Aventino e cappellano e amico di Ottone III fece proprio della Süditalien Politik di Ottone II. Nella vita di Sant'Adalberto, vescovo e martire, che egli, al pari di Giovanni Canapario, aveva scritto del suo predecessore nell'apostolato presso gli Slavi. Bruno di Querfurt lamenta l'infausta attrazione verso l'Auricomam Italiam, questa Italia dorata di sole, dove viene falciato il fiore purpureo della patria, l'ornamento della bionda Germania, stratus ferro, cecidit flos, flos patriae purpureus, decor flave Germania. Era caduto in una giornata di mezzo luglio dell'anno 982 nella piana Riarsa di Capo Colonna, dove Ottone II, scendendo dall'Alta Rossana, dove aveva lasciato la moglie Teofana e il figlioletto, andò ad affrontare l'emiro di Sicilia a Bulcasin. Sul campo erano rimasti molti conti palatini, il lancifero imperiale Richerio, il duca Ottone, i conti Tietmaro, Bezzelino, Gheveardo, Gunther, Beroldo ed Ezzelino, grandi ecclesiastici come Arrigo, vescovo di Augusta, e Werner, abate di Fulda, e poi ancora Ottone II, conte dei Marsi, cioè oltre anche la nobiltà locale, i feudatari locali, Landolfo IV, principe di Capua, e suo fratello Pandolfo, figli del grande alleato di Ottone I, Pandolfo Capo di Ferro. Questo era stato per Ottone, continua Bruno, l'ultimum et lacrimabile bellum che egli aveva affrontato cum nudis saracens, che può tradursi con i saraceni nudi nel senso che sono pagani, fuori dal manto della grazia che avvolge i cristiani, cum nudis saracens. Ma questo bellum l'aveva affrontato non dextro homine, non con un buon augurio, nec vivo maturove sapience signo, non con un senso maturo di riflessione. Era stato un imperatore in sostanza dissennato, quia mulierem audivit, aveva ascoltato Teofano, e che poi infantilia secutus etas lubrica errare fecit. Questa è la giustificazione. E però noi possiamo dire che invece si trattava di una scelta politica che Ottone II aveva ereditato dal padre e questi da Carlo Magno e dai suoi successori, e che sarebbe diventata sempre più insistente a mano che l'impero veniva definendo più chiaramente le sue premesse ideologiche e la sua origine sacrale e universalistica e la sua funzione universalistica, anche a costo, come nel caso del sud della penisola, di urtare contro una realtà politica diversa e di assai difficile comprensione. Allo storico, oggi, l'Italia meridionale, che nell'alto medioevo, fra i secoli IX e XII, fu ai margini dei due imperi, l'occidentale franco-germanico e l'orientale romano-bizantino, e delle due chiese, la latina e la greca, allo storico l'Italia meridionale si presenta come un terreno assai suggestivo per lo studio del fenomeno delle cosiddette civiltà in contatto, per lo scontro delle etnie contrapposte, ma anche per l'incontro e i prestiti di culture diverse. In questo stesso ambiente ebbe i suoi riflessi la nota polemica fra i due imperi, sia Lonsorge che il Lamma hanno studiato quale idea di impero vi fosse diffusa e come essa si prospettava nelle fonti letterarie dei secoli IX e X. Sono studi nei quali il peso delle interpretazioni sovrasta il tessuto degli eventi che rimane sottinteso. Per il Lamma, tuttavia, il nostro amico comune Lamma, ed è una conclusione importante, per il Lamma il contrasto fra Oriente e Occidente non fu vissuto e condizionato da mere questioni ideologiche, ma soprattutto dalla parte di Bisanzio, sia degli imperatori macedoni che i comneni, sia gli imperatori macedoni che i comneni presero parte attiva alla lotta solo e in quanto o i principati longobardi o gli imperatori franco-germanici minacciassero il sistema difensivo periferico del loro impero nei domini italiani diretti o indiretti dell'Italia meridionale. Più a contatto con l'ecumene mediterranea bizantina, Il sud della penisola sentiva più spontanea l'attrazione verso Bisanzio, considerata come una sede naturale, come la sede naturale dell'impero che faceva agio su quello occidentale. Ancora verso la metà del secolo X, uno scrittore che sentiva con fierezza di appartenere al secolo X, di appartenere alla nazione longobarda, scriveva di Carlo Magno, chiamato dai suoi imperator, nam sic eum vocitabant omnes qui aderant, in famiglia sua, quia preciosam coronam, il suo prorsum capite gerebat. Imperator quippe, omnimodis non dici potest, nisi qui regnum romanum preest, hoc est Constantinopolitanum. Reges Gallorum nunc usurparunt sibi tale nomen, nam antiquitus omnimodis sic non vocitati sunt. Come ovvio, si tratta di una testimonianza di parte, di una voce della coscienza nazionale longobarda. Una appunto delle componenti del poliedrico quadro politico dell'Italia meridionale è il superstite mondo longobardo, in quella Longobardia minore in cui, dopo la caduta del regno, Arechi, principe di Benevento, accolse et rexit nobiliter et honorifice sue gentis reliquias. Honorifice si traduce nel senso che, come è stato dimostrato dallo Schaffer, honor, anche i giuristi naturalmente ne hanno preso atto, honor significa appunto territorio dato in concessione. Quindi gli honores costituiscono quello che a Benevento si chiamarono gli onorati della provincia beneventana, su cui c'è uno studio di Pier Silverio. Dunque rexit et nobiliter et honorifice sue gentis reliquias. In quella Ticinum Geminum, cioè in quella seconda Pavia, come era detto Benevento, molti profughi dal nord vi trovarono riparo, da Sicone, che veniva da Formiuli e con i suoi ottenne un castaldato in Lucania da Cerenza, ai tanti che si monacarono a Montecassino. È venuta fuori una serie di epigrafi dopo l'abbattimento dell'abbazia, e 25 epigrafi sono di monaci che vengono, di longobardi che si monacarono e che venivano dalle regioni dell'Italia settentrionale, preferibilmente, ma anche centrale. Ai tanti che si monacarono dunque a Montecassino, a quelli ai quali si riferiva il capitolare di Carlo Magno del 787, De fugitivis partibus beneventi et spoleti, sive Romanie et Pentapoli, qui confugiunt faciunt. Si riferiva appunto a questa fuga nella Italia meridionale, quindi c'è un rientro di quanti sopravvivono alla sconfitta di Pavia e ridanno vigore a quel ducato longobardo di Benevento, potenziandolo anche dal punto di vista demografico. La patria beneventana è l'ambiente nel quale i longobardi, mantenendosi sempre differenziati dal substrato indigeno, come classe dominante, militare e guerriera, servono coscienza della loro nazione e maturano alcuni fra i motivi più rilevanti e specifici della loro civiltà. Nel corso del IX secolo, la Divisio Ducatus dà luogo ai tre principati di Benevento, Salerno e Capua, dai quali alla fine del secolo seguente si irradia una fitta rete di comitati autonomi nelle regioni interne della Campania, nella Marsica, nel Molise, nell'Abruzzo Citeriore, nella Daunia, nel Brugio Superiore. In stretto contatto con questa Longobardia si svilupparono sulle coste tirreniche, le autonomie periferiche romanico-bizantine di Napoli, Amalfi, Gaeta, Sorrento, alle quali corrisponde, circa la fine del X secolo, sulla costa adriatica, lo sviluppo municipale delle città pugliesi. Nelle estreme regioni del sud, infine, nel Salento, nella costa ionica della Lucania e nel Brugio citeriore e ulteriore, permaneva il dominio diretto di Bisanzio. Nei tre temi di Longobardia, che era in Puglia ed era chiamato di Longobardia dai bizantini, perché nel momento della massima espansione i Longobardi avevano costituito dei castaldati a Bari e a Taranto, riconquistati poi dopo l'871 da Basilio I il Macedone. Quindi i tre temi di Longobardia, di Lucania e di Calabria, riuniti poi alla fine del X secolo nell'unico catepanato d'Italia. Va però sottolineata la grecità autoctona e arcaica di queste regioni, in cui la romanizzazione non aveva cancellato l'etnia originaria, anche se nel Medioevo il processo di ellenizzazione si fa più intenso per le correnti migratorie in seguito alla invasione avarica del Peloponneso nel VI secolo, alla espansione islamica nel Levante e nelle isole Egee e alla lotta iconoclastica. È importante leggere per esempio un passo della cronaca cosiddetta di Monembasia, che è di un autore anonimo bizantino del X secolo, che ricorda che in seguito all'invasione avarica del Peloponneso molti profughi raggiunsero per mare i più sicuri rifugi delle terre italiane della costa ionica. Il passo è stato recuperato di recente da un codice di provenienza del Monte Athos. Nelle estreme regioni del sud, dunque, c'è il dominio diretto di Bisanzio. È fittissimo in queste regioni bizantine, greche, fu inoltre, dopo la conquista araba della Sicilia, l'insediamento del monachesimo italo-greco, organizzato soprattutto nelle eparchie, nelle due eparchie del Mercurion nell'alta valle del Lao e del Latinianon nel medio corso del Sinni, sono fiumi della Basilicata, no, non troppo grossi. No, se ci fosse una carta. Né va dimenticato ancora, è chiaro che io ho dovuto premettere questa panoramica della situazione del sud. Non va dimenticato che in questi stessi secoli, il IX e il X, l'Islam tenta una penetrazione nell'Italia meridionale che sembra programmata, particolarmente sulle coste, costituiscono gli islamici, i saraceni, come li chiamano genericamente, ma saraceni non significa niente, o meglio significa orientale in genere, ma le fonti li nominano diversamente e variamente. I saraceni costituiscono degli insediamenti durevoli come a Bari, dove l'Emirato Arabo durò dall'847 all'871, a Taranto, a Tricarico, ad Amantea, ad Agropoli, al Garigliano, alle foci del Garigliano, famosissimo, dove furono presenti per 40 anni fino al 915. Quindi la presenza dei Saraceni assume aspetti ambigui, perché essi partecipano come milizie mercenarie nelle lotte fra i Longobardi e i Ducati costieri o fra le stesse signorie longobarde, oppure come bande autonome che si danno al saccheggio e alla tratta di schiavi da destinare al lavoro coatto. Era il momento in cui l'impero islamico viveva la punta massima della sua espansione e della sua vitalità. E poi vi esercitano anche attività mercantili di contrabbando attraverso i molti kafires, pactuotes, cioè i cristiani rinnegati, molti meridionali dovettero adattarsi a islamizzarsi, come appunto è documentato variamente. E quindi non è facile distinguere fino a che punto in questo contesto così mescidato dell'Italia meridionale i saraceni, gli islamici, rappresentano un elemento di disgregazione o di rottura, oppure un elemento di contatto e di scambio con il mondo mediterraneo e levantino. Da ultimo, la politica pontificia rivolge e svolge nel sud un disegno ordinato ad affermarvi la sua giurisdizione, fondata sugli antichi patrimoni che rivendicava in Campania, sulle donazioni imperiali sempre iterate, sulla funzione metropolitica che vi esercitava direttamente, fin quando, a cominciare dal 966, le capitali delle signorie meridionali furono innalzate alla dignità arcivescovile in coincidenza della creazione di sedi metropolitiche nelle terre greche da parte del patriarca Polieuco. Papato e impero occidentale trovarono anche nelle grandi signorie monasteriali di Monte Cassino e di San Vincenzo al Volturno e poi di San Clemente di Casauria, fondato da Ludovico II, e poi ancora nella Santissima Trinità di Cava, dalla metà del secolo XI, trovarono anche una via di penetrazione quando questi monasteri non furono controllati dalle signorie locali. Una via di penetrazione che in moltissime occasioni consentì una affermazione della presenza imperiale. Il dominio sull'Italia meridionale, contro ogni previsione storica, dovevano affermarlo i Normanni, che chiamati nella prima metà del secolo XI a Fer Chevalery per esercitarvi il mercenariato, è ritenuta anch'essi, come almeno risulta nella prima metà dell'undicesimo secolo dalle fonti, nuovi e più nefandi saraceni acquisteranno da ultimo soltanto una ideologia politica e, in conseguenza della scelta gregoriana mediata dal grande abate cassinese Desiderio, si volsero a creare uno Stato che portava in sé, come forza disgregante, la preesistente composizione particolaristica in cui soprattutto l'antico principato longobardo di Capua, divenuto normanno con Riccardo Drengo, e il ducato di Puglia, ancora legato a Bisanzio, ridavano o ridaranno vita ricorrentemente alle loro tendenze autonomistiche. Questo dunque, appena accennato, l'ambiente politico ed etnico dell'Italia meridionale alto medievale, entrato per secoli da Carlo Magno in poi nella sfera degli interessi dell'impero occidentale. Esso, questo ambiente, è stato di solito considerato come un campo sterile di torbida anarchia, ma visto più da vicino, rivela in ogni organismo che lo compone e nella dinamica delle vicende non solo politiche, una sua intensa vitalità, che sarà poi mortificata proprio da quei normanni ai quali la vecchia storiografia attribuiva il merito di aver fondato il primo Stato moderno europeo. Le ragioni e le direttive della politica di penetrazione imperiale nel Sud furono indicate e sperimentate per primo dallo stesso Carlo Magno, fino a tradursi in un modulo che vediamo ripetersi con costanti analogie. Per Carlo Magno, l'Italia meridionale, almeno quella longobarda, doveva legittimamente rientrare nel Regnum Langobardorum che gli aveva conquistato, così come per i suoi successori sarà ovvio che dovesse far parte integrante del Regno Italico. Nel gennaio del 787 Carlo Magno scese in Italia con il proposito dichiarato di dover partem Italiae penunc beneventus vocatur, nunc si riferisce al tempo in cui gli annales qui di Cuntur e Inardi furono scritti, cioè al tempo di Ludovico il Pio, partem Italiae penunc beneventus vocatur ad credi, cioè doveva appunto affrontare ut illius regni residuam portionem sue potestati subiceret, cuius caput in capto desiderio rege maiorenque partem in Longobardia iam subacta tenebatur. Quindi era una questione di logica conseguente alla vittoria di Pavia. E questo discorso è più o meno simile a quello di Ottone I, il quale manifesta rispetto a tutto il sud, compresa la Puglia, in quanto era stata longobarda fino alla conquista di Basilio I, manifesta la stessa convinzione che esprime in una arenga di un diploma in favore della Chiesa di Fermo del 2 novembre del 968, mentre si accingeva alla sua seconda spedizione nel sud. Dum in Apuliam expeditionem ageremus ut ipsam sublatam agrecis, è proprio un discorso un po' prepotente, perché era lui semmai che voleva offrire a Grecis, ut ipsam sublatam agrecis nostro italico regno redintegrare laboraremus. Si era di fatto venuto codificando un diritto sulla base di quel giuramento di fedeltà che alla morte di Arechi Carlo Magno aveva imposto al figlio di lui Grimoaldo I, che gli aveva tenuto ostaggio alla sua corte quando lo rilasciò perché succedesse al padre nel Principato di Benevento. Siamo nel maggio del 788, facendogli assumere altre obbligazioni di dipendenza feudale. Un diritto sia pure astratto e spesso misconosciuto, che fu fatto valere quando era possibile durante le successive campagne imperiali e cui alle varie dinastie locali venivano imposti giuramenti di fedeltà da parte degli imperatori. Non altrimenti che in base a questo diritto Enrico IV, circa la fine del 1075, quando già si era avviata la rottura definitiva con Gregorio VII, poté offrire a Roberto Guiscardo, il quale già 2 anni prima aveva rifiutato l'offerta della corona imperiale che gli era stata promessa dagli antigregoriani attraverso il cardinale Ugo Candido, ben offrì a Roberto Guiscardo di farsi suo vassallo e di ricevere le terre da lui conquistate in Puglia, pardon royal. Ma i messi imperiali, Gregorio Vescovo di Vercelli e il cancelliere Everardo di Nellenburg, si ebbero dal Guiscardo una risposta fiera, se non proprio insolente, certamente ironica. Il testo lo riporta Amato di Montecassino, che scrisse in latino, ma il testo c'è perduto, questo lo dico tra parentesi per chi non lo sapesse, ma è molto ovvio, però il testo latino fu tradotto da un napoletano alla corte di Carlo II, d'Anciò, un napoletano che sapeva il napoletano, ma non il francese, e quindi napoletanizzò l'antico francese della corte di Carlo II d'Anciò. Quindi quando leggerò questo francese diventerà anche peggio di quello che leggo notoriamente, no, ma insomma, normalmente. Ecco la risposta del Guiscardo ad Enrico IV. Dice: «J'ai traite cette terre de la puissance des Grecs». Ho strappato questa terra alla potenza dei greci. A grande fusione di sangue, con grande versamento di sangue. E maintenant, Dieu tout puissant m'a glorifié en cette victoire et a subjecté la terre. Et pour ça, que me convient être subjet à Dieu, pour la grâce que je l'ai vaincu. Et de lui, reconnaisse je la terre de laquelle vous dites que vous me voulez donner, quella terra che voi dite che mi volete dare con investitura. Ma poiché, dice il Monsignore, il re è così generoso, mi dia del suo da aggiungere a quel poco che possiedo, ed io gli sarò soggetto. Toutefois, sempre salva la fidelità dell'Eglise, fatta salva la fedeltà alla Chiesa. Che il Guiscardo volesse fatta salva la sua fidelitas verso la Chiesa derivava in fondo dai possessi che questa si era fatta riconoscere e ripetutamente confermare nelle regioni meridionali dagli imperatori franco-germanici, sempre sulla base dei diritti da essi vantati e rivendicati sulle medesime. In base alla promissio del 774, che fra altri territori comprendeva anche Cunctus Ducatus Beneventanus, e in seguito alla fallita campagna del 787 contro Arechi, che aveva bloccato a capo Carlo Magno, Carlo concesse a Papa Adriano I una vasta regione tra le valli dell'Liri Garigliano e il Volturno, Capua compresa. Questa donatio figura nel Pactum Confirmationis dell'817 di Ludovico il Pio in favore di Pasquale I e viene sempre iterata nei privilegi imperiali, a cominciare dal Preceptum Ottonis del 13 febbraio 900 66 a Giovanni XVI, alla conferma di Enrico II a Benedetto VIII il 14 febbraio del 1014. Si trattava non di un dominium utile su un complesso di patrimoni fondiari, ma di un autentico dominium eminens. E come ha dimostrato e sostenuto, respingendo la nota tesi del Sickel, sia lo Stengel che il Kerr, e che almeno una volta i papi fecero valere quando Giovanni VIII, che aveva avviato una decisa politica di intervento nella Campania, ottenne come un conte di Capua lì si sottomettesse e che i neus vocamine fossero exarate le carte e figurati i numeri. Gli stessi imperatori, del resto, spesso avvocavano a sé di fatto il diritto di investitura dello stesso principato di Capua e di altri domini meridionali, come fecero Ottone I nei confronti di Pandolfo Capodiferro circa il 964 e successivamente Corrado II, che nell'agosto del 1038 investì del principato di Capua Guaimario V di Salerno, ed Enrico III, che nel febbraio del 1047 ripristinò nel medesimo Pandolfo IV. Solo dopo questa data i papi, disconoscendo i diritti imperiali, investono direttamente con il gonfalone di San Pietro i principi normanni delle terre meridionali che essi avevano conquistate, e quindi erano andati con le conquiste ben oltre il principato di Capua, come risulta abbastanza evidentemente dall'analisi delle formule di investitura che è stata fatta da Paul Kerr. La serie successiva e continua di affermazione dell'alta sovranità imperiale sugli stati meridionali ha dunque una genesi carolina. Ma a Carlo Magno bisogna rifarsi per un'altra tradizione, anch'essa ripercorsa nei secoli, rivolta ad annodare trattative diplomatiche con l'impero bizantino, sia per neutralizzare gli interventi a favore delle signorie del sud, soprattutto le Longobarde, sia per conseguire direttamente e per via pacifica il dominio sui temi o sul cartepanato d'Italia attraverso progetti di nozze con principesse porfirogenite. Era il metodo che Erchemperto chiama delphila feminarum illaqueare, cioè in sostanza il matrimonio con il suo contenuto pattizio giuridico, che è stato del resto alla base di tutta la politica matrimoniale fino alla famosissima Maria Teresa, tu Felix Austria Nube. Necessariamente, a seconda della preponderanza delle potenze e della presenza dei due imperi, gli stati meridionali dovevano fluttuare in una politica che viene definita instabile e incoerente e che tuttavia era dettata dal calcolo degli interessi immediati, in situazioni in cui a volte accettavano il primato bizantino con i vari titoli di Ipati, Dissipati, Patrizi, Vestis, Vestarario, o addirittura, come nel caso di Landolfo II, di stratega della Longobardia. Altre volte invece gravitavano nella sfera della influenza dell'impero occidentale, come nel caso di Pandolfo Capodiferro, che divenne fra tutti il più potente vassallo italiano di Ottone I. Nel gioco di queste fluttuazioni, significativamente l'anonimo di Salerno dice di uno di questi principi longobardi che ad instar arundinis seggerebat, et qui plus valebat, illi fidem servabat. Ora, da queste contrastanti politiche e influenze politiche, fra questo hanno rilievo le trattative diplomatico-matrimoniali. Anche qui dobbiamo ripensare a Carlo Magno. È noto che Carlo Magno, fin dal 781, aveva progettato le nozze di sua figlia Rotrude con il figlio della imperatrice Irene, Costantino VI, e che già un funzionario bizantino era venuto ad Aquisgrana per istruirla nella lingua e nelle usanze greche. Ma nel 787, durante la sua campagna contro i rechi di Benevento, un'ambasceria da Bisanzio lo raggiunse a Capua per annunciargli la rottura del progetto di matrimonio in connessione allo sbarco di truppe bizantine nel sud, al comando delle quali vi era Adelchi, cioè Adelchi che i bizantini chiamavano Teodoto, Adelchi figlio di Desiderio, che accorreva a dar sostegno al cognato, perché Adelchi era fratello di... era fratello della moglie di Arecchi, che si chiamava Adelperga. A queste mancate nozze si contrappongono quelle circa il 791 che ratificano l'alleanza bizantina con i Longobardi Beneventani fra Grimoaldo I ed Evanzia Damnia, nipote di Filarete il Misericordioso e cognata di Costantino VI. Cioè il Longobardo era riuscito a imparentarsi con la dinastia imperiale e Carlo Magno no. Ma Carlo Magno ritenta, progettando per se stesso, che era ormai vedovo, le nozze con Irene, anch'esse però mancate per la deposizione della imperatrice nell'ottobre dell'802, ma che erano state proposte per bloccare le conseguenze della invidia suscepti nominis imperatoris, romanis imperatoribus super hoc indignantibus, come è noto. Significativo, ma pur esso mancato, il progetto di nozze avviato verso la fine dell'869 da Ludovico II durante la sua terza campagna nell'Italia meridionale e da Basilio I in vista della collaborazione navale che questi si impegnava a fornire per l'assedio di Bari, in cui si era rinchiuso l'emiro Savdan. Le nozze fra Irmengarda, figlia di Ludovico, e della imperatrice Engelberga, con il figlio di Basilio Costantino, furono negoziate a Costantinopoli da un mediatore di eccezione, di grande prestigio, quale fu Anastasio, bibliotecario. Ma quando arrivò la flotta imperiale di 400 navi al comando dell'Orifa, quadam occasione interveniente, displiquit Ludovico dare filiam suam al patrizio che doveva accompagnarla a Bisanzio. A lungo negoziato, attraverso trattativi difficili, fu il matrimonio di Ottone II con Teofano, cugina di Romano II, avviate già nel marzo del 968 con l'ambasceria di Domenico di Venezia e poi nel giugno con quella di la seconda, con quella di Lutrando di Cremona presso Nicefro Focas, Entrambe fallite queste missioni, non tanto per la vecchia contesa circa il titolo di Basileus, ma per la richiesta in dote del Catepanato d'Italia. Più abile fu la mediazione di Pandolfo Capodiferro, che tenuta prigioniero a Costantinopoli per essere caduto in una imboscata durante la campagna di Ottone I in Puglia, seppe piegare a vantaggio suo e dell'impero ottoniano gli eventi seguiti all'assassinio di Nicefaro e alla successione di Giovanni Zimisces. Siamo nel dicembre del 969. Il matrimonio fu poi celebrato a Roma il 16 aprile del 972, senza però una dote territoriale per la sposa. La sposa da imperatrice, tuttavia, in seguito non fu estranea ai progetti di Ottone II nell'Italia meridionale e saprà suggestionare, col richiamo della grecità bizantina, il figlio Ottone III, per il quale auspicò a sua volta un matrimonio con una principessa imperiale greca. Per contrattarlo verrà inviata a Costantinopoli nel 995, ma ormai Teofane era morta nel giugno del 991, un'ambasceria guidata da Giovanni Filagato, un greco di Rossano, amico di San Nilo e precettore di Ottone III, che con il favore di Teofano era diventata abate di Nonantola e poi vescovo di Piacenza. Si sa che al ritorno dalla sua missione fallita, il Filagato si gettò, subornato dalla fazione romana dei Crescenzi, in una avventura che ne segnò la drammatica fine e lo consegnò a una vendetta così spietata che suscitò l'indignazione di San Nilo. Queste relazioni diplomatico-matrimoniali ottoniane vengono ritentate solo più tardi da Corrado II, che rinnega la politica decisamente anti-bizantina di Enrico II. All'inizio del 1028 salpa da Venezia una missione guidata da Werner, vescovo di Strasburgo, per chiedere una sposa porfirogenita a Costantino VIII per il figlio Enrico. Ma il messo imperiale muore e il nuovo imperatore romano Argiro interrompe le trattative. Ritendono la stessa carta, almeno una volta, in favore dei Normanni gli stessi imperatori bizantini, quando nel tentativo di controllare sia pure indirettamente la nuova situazione che aveva sconvolto i domini meridionali, il Guiscardo, sia pur riluttante, accettò di inviare a Costantinopoli nel 1076 una sua figlia ribattezzata a Bisanzio Elena come promessa sposa di Costantino, figlio minorenne di Michele VII. Anna Comnene, che è notoriamente una donna maligna, racconta che questo giovinetto greco si spaventò a vedere questa Elena, la sorella di Guiscardo, che era, come si dice, un po' alta. Diciamo così. Così elencati, questi episodi possono apparire distanti o separati nel tempo, ma annodati fra loro, pur nelle mutate situazioni storiche, si riportano tutte a uno stesso modulo costante e comunque dimostrano la continua presenza dell'Italia meridionale nella sfera degli interessi dei due imperi, anche se fra i due l'occidentale era il più lontano ed eccentrico rispetto al sud, E se si sottolinea forse un po' troppo il processo di estraniamento tra Oriente e Occidente. Ora, questa tradizione si ricollega a Federico I, quando nel settembre del 1153, dopo che nel marzo i messi di Eugenio III avevano sciolto il suo matrimonio con Adelaide di Faubourg, invia a Costantinopoli Anselmo di Affelberg, homme d'église, ma come abbiamo sentito stamattina, uomo anche di grande talento diplomatico, a trattare del suo matrimonio con la Sebastocrarissa Maria, nipote di Emanuele Comneno, che a sua volta nel novembre dello stesso anno inviò un'ambasceria al Barbarossa per definire la questione. Le trattative fallirono sempre a causa dei problemi del sud, e su questo è d'accordo anche Lama nel suo libro su Comneno e Stauffer. E Federico poi, come è noto, nel 1156 sposerà Beatrice di Borgogna. Però fallirono anche nel 1170-71 le trattative matrimoniali della missione a Bisanzio di Cristiano di Magonza, a seguito delle quali Federico ricevette a Colonia Nuncios Regis Grecorum pro coniunzione filie eius figlio suo. L'ho detto in latino perché così è più chiaro. In italiano non si sarebbe capito il figlio di chi era. I contatti con l'Oriente sul piano della diplomazia durarono finché la politica di restaurazione imperiale perseguita da Manuele Comneno si diresse in funzione antinormanna e non si rivolse poi contro lo stesso Barbarossa. Fu allora che questi, al giovane Guglielmo II, deluso Guglielmo II per le mancate nozze con Maria Azzurra, la figlia di Emanuele Comneno, promessagli nel 1172 dall'imperatore bizantino, fece offrire, sempre tramite Cristiano di Magonza, qualche mese prima della battaglia di Legnano, la mano di una sua figlia. Ma il normanno rifiutò: «Sciens hoc matrimonium Alexandro Pape plurimum displicere, et romane ecclesie non modicam iacturam inferre». Quindi siamo alla vigilia immediata delle nozze di Enrico e di Costanza. Diciamo che questo schema può apparire astratto, anche perché sottintende la dialettica particolare delle varie, sia pure analoghe, situazioni storiche, ma che serve a misurare nella successione dei tempi alcune costanti nei rapporti tra l'impero franco-germanico e l'Italia meridionale, che permangono come elementi caratterizzanti anche quando alla trattativa diplomatica subentra o si accompagna l'azione diretta della conquista militare. Alla guerra di Carlo Magno contro Benevento del 787 seguono altre quattro fasi di lotta, non l'elenco, in cui i protagonisti sono poi Pipino e Grimoaldo I, definiti dallo storico del tempo juvenili etate nitentes et ad bella proclivi. Cioè, voglio sottolineare il fatto che ne fanno un fatto personale, una avversione profonda fra i Galli, i Franchi e i Longobardi di Benevento. È una contrapposizione di etnie. Già a Carlo Magno veniva attribuito un impegno solenne: Nisi sceptrum quod manu gesto, arichis percutio pectus vivere novo. E Pipino a sua volta aveva dichiarato: volo ut sicut arichis genitor illius subiectus fuit quondam desiderio regi, ita sit mihi et grimoald. Ma questi poi rispondeva orgogliosamente: liberat ingenus sum, e veniva celebrato persino nell'epigrafe funerario come colui che pertult sepe francorum falangas, e che gallorum forza regna non valvere uius subdere colla sibi. Ora, questa avversione ai Franchi è segnata a lungo nella memoria dei Longobardi per la sconfitta che posa fino al loro regno, ma poi alimentata successivamente dalla vittoriosa resistenza della patria beneventana, e si radica profondamente a tal segno nella comune coscienza meridionale che, ecco, e questo è importante, che vengono chiamati Galli, Franchi, Franci, nelle fonti coeva, anche gli eserciti germanici. Sono eserciti di Franchi. Ma non per una, diciamo, errata conoscenza geografica, perché si parla anche di Sassoni certe volte. Ma nei testi, io ne ho notati parecchi, persino nel Bios di San Nilo, Ottone III è chiamato Rex Fratton Franco. Quindi c'è una, diciamo, un'ostilità che è diventata tradizionale. Ne valsero ad attenuarla, questa ostilità, questa avversione, i meriti conseguiti da Ludovico II, chiamato prima come arbitro della divisa Ducatus Beneventani e poi ad Tuicionem perdite patrie contro i Saraceni, dagli abati Bassaccio Cassinese e Giacomo Vulturnese, dal conte vescovo di Capua, da Sergio II di Napoli, da tutti i comarcani. A conclusione della sua vittoriosa campagna, l'ultima, per la liberazione di Bari, cioè il 3 febbraio dell'871, tutto l'ambiente politico meridionale, fatto consapevole che dietro la crociata anti-islamica si nascondevano le mire imperiali nel sud, con la partecipazione anche di napoletani e di amalfitani interessati a mantenere i contatti con il mondo islamico, Adelchi di Benevento catturò a tradimento l'imperatore e lo tenne l'imperatore Ludovico II e lo tenne prigioniero con moglie e figlia dal 13 agosto al 17 settembre. Fu uno scandalo, e di questo scandalo c'è un eco nel ritmo abecedario de Captivitate Ludovici, ma a provocarlo avevano contribuito anche le donne, Engelberga ed Irmengarda, che deridevano pesantemente le donne dei Beneventani, dicevano che avevano guerrieri da niente, mariti da niente. E quindi poi c'era anche il fatto che Cepernu Galli, graviter Beneventanos persequi et crudeliter vexare. A distanza di tempo, nel 1047, l'imperatrice Agnese ed Enrico III saranno oggetto di un analogo ingiurioso atteggiamento da parte dei Beneventani. Gli interventi contro gli assalti islamici, come successivamente contro le prime bande mercenarie dei Normanni, sono il motivo dichiarato delle spedizioni imperiali nel sud. Ma La ragione ultima è il controllo politico di tutta l'Italia meridionale e serve a spiegare sia i momenti di collaborazione fra i due imperi, sia la connessione non casuale tra le campagne militari che essi promossero. A Ludovico II subentra in Puglia Basilio I, così come a Ottone II subentra in Calabria a Nicefalo Foca e a Basilio II, che fino al 976 vi avevano tentato imprese non fortunate anche con il concorso di navi pisane e genovesi al soldo dell'impero. Le campagne militari imperiali non solo si svolgono al di sopra degli interessi degli stati locali, ma di fatto si risolvono tutte a loro danno. Pur tenendo conto della violenza dei tempi, le fonti per le sole spedizioni di Ottone I non ricordano che devastazioni ed eccidi. Nel bios di San Luca d'Armento della Calabria si legge: Necefori tempore ferox quidam de ex transalpinis nationibus in Italiam venit ut diriperet atrociterque grecorum urbes expugnaret. E altrove: Calabria finibus venit incendis predacionibus vehementer eam actrivit. E poi per la Campania: octo sepe dictus cum multitudine ostium Neapulum properavit, atque undique eam animalis denudavit. Nel corso del secolo XI gli imperatori germanici non cessano di intervenire nel sud, anche se in funzione degli interessi predominanti della loro politica che li impegnavano nei rapporti col papato e nel programma politico ecclesiale, ma vi trovano una situazione ancora più complessa. Sul piano militare, anzitutto, essi cozzano contro un sistema di posizioni difensive create dopo la sconfitta di Melo e dei suoi mercenari normanni a Cannes, la sconfitta del 1 ottobre del 1018, dal catapano Basilio Boioannes, con una serie di fortificazioni che avevano promosso gli insediamenti lungo la linea del Fortore di Melfi, Troia, Dragonara, Civitate, Castel Fiorentino, nella regione della Puglia settentrionale, che ancora oggi è chiamata Capitanata. Né Enrico II, al seguito di Benedetto VIII, nel giugno del 1022, con la sua triplice armata, al comando di una delle quali era Pilgrim, arcivescovo di Colonia, né Corrado II, nella spedizione della primavera del 1038, riescono ad aver ragione della fortezza di Troia e ad aprirsi la via per Bari. Entrambi gli imperatori, inoltre, concorrono a rompere gli equilibri negli stati longobardi, provocando uno spostamento di preponderanze da Pandolfo IV di Capua a Guaimario V di Salerno. Il primo dei due era ostile ai Cassinesi, ai quali aveva imposto come abate il fratello, invadendone anche le terre, e poi fu ridotto da Enrico II alla carceralis miseria tratta a Bambergo, due volte deposto e due volte restaurato. E quindi in Campania l'impero non ha più una penetrazione sicura. Contemporaneamente è in atto la insurrezione antibizantina in Puglia, derivata dal conflitto fra i ceti mercantili delle città costiere più grecizzate e la classe agraria di origine longobarda dell'interno, rappresentata da Melo, che trovò sostegno nei mercenari normanni e nella protezione imperiale di Enrico II. Intanto i normanni affermano la loro presenza nell'ormai fragile sistema politico meridionale e da mercenari si evolvono fino a diventare protagonisti. Sarà proprio Enrico III, nel febbraio del 1047, il primo che ai conti Rainulfo di Aversa e Drogone di Puglia, universam quam tung tenebant terram imperiali investitura firmavit. A tentare di combatterli ancora sarà Leone IX, coinvolto nel disegno ambiguo di Argiro, diventato da ultimo, all'inizio del 1051, Magistros Caedux Italias, e autore di un progetto politico-ecclesiastico che doveva unire insieme, contro gli invasori, il papato e i due imperi, evitando nello stesso tempo la rottura con la Chiesa greca. La sconfitta di Civitate dell'esercito pontificio con i contingenti imperiali e il successivo scisma tra Roma e Bisanzio determinarono una situazione ormai tutta a favore dei normanni, anche per i mutamenti che sopraggiungono all'interno del movimento riformatore nel corso della lotta fra il papato e l'impero. L'aspetto più scandaloso della rottura fra regnum e sacerdozium, nel giudizio degli stessi contemporanei, fu lo strumento delle armi normanne di cui questo si valse. Circa il febbraio del 1050, l'arcidiacono Aldebrando, per delega di Niccolò II, raggiunse Riccardo Drengo, conte di Aversa, e lo fece principe di Capua, e ne ricevette il giuramento di fedeltà alla Chiesa e insieme 300 armati per combattere l'antipapa Benedetto X. I due imperi non avranno più ragione di scontrarsi direttamente nel sud per l'inserimento di questa terza forza che ne ha mutato radicalmente il corso storico. Saranno anzi riavvicinati nella lotta contro i conquistatori e il loro regno. Di fronte al realismo del partito riformatore, tanto più velleitaria appare l'intensa attività diplomatica che insieme a Gisulfo di Salerno svolge a Costantinopoli circa il 1062, Pantaleone di Mauro Comite, non solo per conto della sua Amalfi, ma di tutte le città meridionali, ormai compromesse nelle loro autonomie e istituzioni municipali, nel tentativo di avvicinare i due imperi e il papato in un ultimo progetto antinormanno. La lettera che egli scrive a Cadalo perché si faccia mediatore portor pueri regis di un'alleanza tra Costantino Ducas ed Enrico IV contro i normanni, qui venerunt conturbantes fraternum fedus indivisibilis imperi, sebbene giunta a noi attraverso la tradizione sospetta di Benzone, riflettono bene il clima d'opinione diffuso nell'Italia meridionale colpita dalla violenta sopraffazione dei conquistatori. Pur avulsi e isolati dal più ampio contesto storico e disposti nella successione diacronica, questi momenti diversi della politica meridionale degli imperatori franco-germanici si propongono a qualche riflessione e, prescindendo dalle conseguenze sulla nazione germanica e sulla ideologia dello Stato tedesco dibattute nel corso della polemica storiografica, non si può negare lo slancio verso l'Oriente mediterraneo che segnò l'impero fin dalle sue origini. A Carlo Magno Notchero attribuisce l'esclamazione «O utinam non est ille gurgitulus inter nos, forsitan divincias orientales aut partiremur aut pariter partecipando communiter aberemus». E a lui, a Carlo, Paolo Diacono rivolgeva l'augurio «Ut per natam», cioè Rotrude, «Ut per natam regni vires tendantur in Asia». Ed è appunto questa tradizione che si definisce in circostanze nuove nella vocazione mediterranea di Federico I e di Enrico VI. Non che gli imperatori franco-germanici abbiano sentito in particolare l'attrazione per la dorata menzogna attribuita ai Normanni verso la terre qui men latte et miel e tam bel chose, ma certamente essi nel sud, essi gli imperatori, gli eserciti germanici, nel sud avvertirono i segni di un mondo diverso, per cultura, per economia. Gli itinerari degli eserciti imperiali sono gli stessi che ripercorrono alcuni codici. Delle traduzioni dal greco di vite di santi, delle quali la Napoli ducale era il centro più attivo fin dal IX secolo, quelle di Santa Maria Egiziaca e del vicedomino Teofilo, di cui fu autore Paolo Diacono napoletano, furono inviate fra l'876 e il 77 a Carlo il Calvo. La leggenda della meretrice, la leggenda del patto col diavolo di Teofilo, entrarono a far parte di quei Volksbücher con i noti sviluppi che poi avranno attraverso Grotzwita e Arnoldo di Lubecca fin giù nell'età moderna, fino a Goethe. Assai divulgato sarà anche il romanzo di Alessandro, che circa il 943 era stato acquistato con molti altri libri dall'arciprete Leone di Napoli sul mercato di Costantinopoli. La sua traduzione della storia de Prelis è giunta a noi da un codice di Enrico che Enrico II portò a Bamberga e fu alla base della trasposizione che nell'eroe macedone il Medioevo occidentale fece degli ideali della sua cavalleria. A sua volta Enrico II, circa il 1023, fece dono all'abate cassinese Teobaldo di un codice proveniente dalla scuola calligrafica di Ratisbona, in una miniatura della quale è raffigurato Pandolfo IV, supplice sotto la ferula del giudice. Ricerche poi, resterebbe poi da spiegare perché mai Wolfram von Eschenbach abbia trasposto nella malefica figura del mago Klingsor un personaggio airborne in terra della Bur. È da segnalare l'efficacia descrittiva delle note di viaggio nel sud di Corrado di Querfurt e di un Gervaso di Tilbury. Per i segni del contatto con un'economia diversa mi sembra infine significativa fra tutte le notizie del viaggio d'acquisti che in un giorno del 1065 l'abate Teobaldo andò a fare sul mercato di Amalfi, dove tra l'altro acquistò Viginti Pannos Sericos, quos Triblattos appellant. Sabbia Damiani spiega Triblatti significherebbe di tre colori, perché dice correva voce che stesse per giungere Enrico IV e bisognava che egli, desiderio, aberet quod regi donaret pro tutela et honore uius monasteri. Per quanto riguarda il sud, fu certamente un fatto positivo che la conclusione della secolare politica imperiale finisse da ultimo per inserire l'Italia meridionale nel contesto europeo e che poi con Federico II sperimentasse alcuni motivi della concezione laica dello Stato. Il grande svevo fece ancora in tempo per recuperare gli ultimi segni della civiltà araba di Sicilia e soprattutto della civiltà greca delle estreme regioni della penisola, avviata alla totale rilatinizzazione voluta fin dai tempi di Urbano II attraverso l'espansione della congregazione Cavenso. Ma altre conseguenze vanno lette al negativo. L'intervento imperiale nel corso del XII secolo dimostrava in pieno l'estrema fragilità della monarchia normanna e della sua costituzione interna, della quale poi a torto dovevano menare gran vanto i feudisti a cominciare dal Cinquecento. Il tempus extermini, preconizzato dal Plancus per la morte di Guglielmo II, era già cominciato quando nel giugno del 1133 il principe normanno di Capua, Roberto, uno degli esponenti delle forze centrifughe del regno, entrato nella coalizione organizzata da Innocenzo II, con Lotario di Supplimburgo, contro Ruggero II e l'antipapa Anacleto, ottenne a Pisa dai consoli Azzopardo e Cane un esercito di 1000 uomini che nel corso della guerra per due volte, nel 1135 e nel 1137, seminarono rovine ad Amalfi, a Ravello, a Scala e in tutta la costiera amalfitano-sorrentino fino a Salerno, segnando così il declino dell'antico ducato che nei tre secoli precedenti era stato fra gli stati del sud ben più che il simbolo di un'economia aperta sui mari. Anche Federico Barbarossa, quando nel 1162 pensava a una spedizione nel sud contro il regno normanno e il papato, alleati questa volta contro l'impero, si impegnò con Pisa e Genova con una serie di privilegi che di fatto avrebbero consegnato tutta l'economia meridionale nelle mani delle due repubbliche marinare. Ma nel tema della recessione socio-economica del sud, sopraggiunta con la crisi della monarchia siciliana, l'impero entra, per così dire, per accessione. Erano invece le grandi città comunali del nord e della Toscana che attraverso Genova e Pisa miravano alla conquista dei mercati meridionali e a cancellarvi i centri mercantili antagonisti, come si conferma anche in un libro recente intitolato non a caso Le due Italia di David Abulafia, ma questo è un altro discorso. Se fosse lecito fare storia dei sentimenti, aggiungerei che la presenza dell'impero, per la parte che vi ebbe, spesso segnata dalla violenza, ha contribuito in qualche misura e insieme ad altri fattori storici a generare diffidenza verso il potere, quella diffidenza che viene da lontano a far perdere quindi il senso dello Stato, com'è ancora oggi nella mentalità diffusa e comune della gente meridionale. Grazie. Tra l'altro, anche per questo, io sono poi lieto di dare la parola alla professoressa Fasoli, che l'aveva chiesta per alcune riflessioni sulla lezione del professor Cilento. È un momento, no, vorrei ritradurmi, perché credo di aver parlato in italiano veramente questa volta. Ein Kollege von uns haben viel über Barbarossa gesagt, aber noch nicht Barbarossa selbst erreicht. Io veramente, wirklich habe ich auf Italienisch gesagt, ergreifen, afferrato. Und ich bin der Meinung, ich meine, dass gerade dieser Vortrag von Professor Cilento am meisten gut ist, um solche die Persönlichkeit von Friedrich Barbarossa erreichen zu können. Daher, ich bitte Professor V. Fasoli, ihre Intervention zu machen. Io ho seguito con grandissimo interesse la relazione del collega Cilento, al quale mi lega un grande affetto, come si dice, Cilento sa benissimo. Manselli ricordava che lui e Cilento erano compagni di università, io mi ricordo di essermi ritrovati tutti e due in un concorso universitario in cui io ero uno dei giudici, per la buona ragione che anagraficamente sono comparsa prima di loro. C'è una, no, l'intervento mio si riferisce non nel merito della relazione che è così bella e così ampia, che ha illustrato i precedenti, questa attrattiva che l'impero ha avuto per l'Italia meridionale per la ricomposizione di quest'unità d'Italia malgrado quel elemento di disturbo che è stata la donazione di Costantino, o quello che vogliamo dire, e la pretesa del Papa di avere l'alta sovranità sull'Italia meridionale, perché anche questo è un elemento che noi non dobbiamo dimenticare. Il regno meridionale è vassallo della Santa Sede, quindi questo entra nel gioco. Tutti questi tentativi di penetrazione dell'impero nell'Italia meridionale, i vari tentativi di matrimoni fra il regno normanno e l'impero bizantino, il rifiuto di Guglielmo II di sposare la figlia di Federico II in un momento in cui forse gli sarebbe convenuto, sono dei fatti che ci sono rimasti, sono chiari, sono precisati, sono stati presentati nella loro giusta luce. Poi Cilento ci ha lasciato nei guai a un certo momento. Io mi sono sempre chiesta perché Guglielmo II in quel momento ha acconsentito a quel matrimonio. Perché non era in una posizione di debolezza, in una posizione, in un momento in cui dovesse accettare la volontà di Federico II. Chi aveva in mano questa donna da consegnare era lui, era zio, cioè era nipote, ma era anche tutore. Il problema per me molto grosso è perché ha consentito a queste nozze di cui non poteva non prevedere le conseguenze, tant'è vero che ha invitato i baroni a giurare fedeltà a Costanza e a suo marito. Per me questo è un grosso problema, è un grosso successo della politica di Federico Barbarossa. siamo d'accordo, conclude tutta una lunga traiettoria, ma perché Guglielmo II ha accettato? È la domanda che si è posto anche Pietro da Evoli, che si è chiesto anche lui perché questo matrimonio è stato combinato. E a Pietro di Evoli, che tutto sommato scriveva un poema in onore di Enrico VI e parlava poi anche della nascita di Federico II, il problema si poneva anche a lui. Quando poteva raccogliere una tradizione orale che in realtà non è pervenuta. Frau Fasoli hat das gesagt, sie ist im Allgemeinen mit dem Professor Cilento vollkommen einverstanden und sie hat natürlich diesen Vortrag gepriesen, so wie er verdient. Trotzdem hat sie eine Frage zu stellen, einigermaßen. Professor Cilento hat uns ein wenig im Stich gelassen, weil er hat uns nicht eine Sache gesagt, die sehr wichtig ist und in jedem Fall in Diskussion gestellt wird. Das heißt, warum König Wilhelm II, der persönlich nicht in einer Position von Schwäche war, die in einem guten Moment des normannischen Königreichs war, warum dieser König hat das möglich gemacht, das heißt, diese Hochzeit zwischen seiner Tante Konstanze und dem Sohn Friedrich Barbarossas. Welche Gründe, welche Elemente sind in Betracht gekommen, um diese Hochzeit zu erklären? Ma io ho detto all'inizio che questa domanda che è al centro della mia relazione non ha una risposta, perché le ragioni che indussero Guglielmo II a questa scelta diventano incomprensibili anche nella prospettiva del tempo successivo. Io non ricordo con precisione se Pietro da Evoli faccia riferimento all'intento politico di Guglielmo II con queste nozze. Tutta la serie di letture che ho fatto in merito mi ha portato a scegliere questo aggettivo, cioè la scelta incomprensibile. Mi ricordavo anche delle riflessioni che Morgan fa in merito, il quale più o meno non riesce a spiegare questa contraddizione interna di Guglielmo II nella scelta che fece per il matrimonio di Costanza. È vero che egli fa giurare da tardi a Troia non solo fedeltà, ma fa riconoscere dai baroni i diritti di Costanza alla successione. Ma questo stato di fatto al momento non garantiva con assoluta certezza la successione di Costanza. La successione di Costanza diventa un fatto certo quando la moglie, l'inglese, come si chiamava la figlia di Enrico II? Giovanna, la figlia di Enrico II, quando poteva ancora avere dei figli intanto. E poi al momento dell'intervento di Enrico VI, il Partito Nazionale Normanno si sentiva abbastanza forte con i pretendenti che da varie parti aspiravano alla corona normanna. Cioè, Enrico II, voglio dire, Guglielmo II, non riesce a definire con chiarezza la sua scelta politica, né abbiamo documenti per cui si possa in qualche maniera ipotizzare. L'unica ipotesi che egli tentasse attraverso questo patrimonio non tanto di salvare la dinastia, ma di salvare questa realtà politica che era il regno. Ma naturalmente gli sarebbe occorso la visione di tempi successivi per poter definire questa stessa sua intenzione. Cioè, io non so rispondere. Non so rispondere perché i testi non ci permettono di rispondere. Sono ipotesi, tutte plausibili. Ma in realtà, vero, non è che egli anzitutto avesse la sicurezza della successione di Costanzo e nello stesso tempo avesse la sicurezza di salvare questa realtà che era la realtà politica del regno delle istituzioni. Professor Filento, hat nochmal unterstrichen und wiederholt, was er am Anfang seines Vortrages schon gesagt hatte. Seiner Meinung nach ist die Entscheidung Wilhelms II. Unverständlich. Er hat dieses Beiwort mehrmal wieder gesagt, wiederholt, weil die allgemeine Situation des Königreichs Sizilien machte eine solche politische Entscheidung nicht nötig. Es waren im Königreich Siziliens noch mehrere Kräfte, mehrere normannische Kräfte zur Verfügung, die Kontinuität des Königreichs einigermaßen versichern konnten. Dazu kommt noch eine Tatsache, hat Professor Cilento gesagt, das heißt, es sind Elemente der Zukunft, die natürlich erklären, dass diese Entscheidung nicht möglich war. Daher sind wir vor einer Schwierigkeit, die wir nicht erlösen können, auch, ich möchte sagen, überhaupt, spezialmente, weil wir nicht so viele Quellen zur Verfügung haben, die uns diese Probleme helfen, diese Probleme zu erlösen, zu entscheiden. Natürlich, nachher können Hypothesen kommen, aber immer nach der Meinung des Professors Cilento haben wir nicht die Möglichkeit, eine klare und eine verständliche Erklärung Erklärung zu können. Bitte schön. Ja, scheint es nicht eigentlich so, dass die Hochzeit... Io volevo fare una piccola aggiunta in fatto di ipotesi. Io ho fatto un'ipotesi che è basata sul fatto che Giovanna d'Inghilterra, passata a seconde nozze, ebbe immediatamente due figli, uno in città dall'altro. Ed è verosimile che quell'uomo eccezionale, dal punto di vista della forza d'animo che era Guglielmo II, consapevole della quasi certa mancanza di successione, abbia preferito affidare il regno, diciamo la dinastia, il regno all'impero piuttosto che abbandonarlo alle mani dei suoi irrequieti baroni. Io ho fatto quell'ipotesi. Frau, che è insomma una ipotesi anche questa, ecco, Frau, per portare il problema su un piano concreto e reale. Frau Fasoli stellt das vor, das heißt, Wilhelm II. War bewusst, dass er keine Erben haben konnte, daher hat er das bevorzugt, das Königreich Sizilien, dem Kaisertum, dem Kaiser lassen, mehr als das Königreich in Unordnung und im Chaos der normannischen Baronen, ich füge hinzu, die er gut kannte, zu überlassen. Infatti bisogna pensare, credo che la signorina Fasoli abbia giustamente sottolineato una cosa, non dimentichiamo quello che durante il regno di Guglielmo II e anche dello stesso Guglielmo I è accaduto, cioè questa feudalità, chiamiamo feudalità normanna, che in forza di tradizione di stirpe, non dimentichiamolo, e forse il cambiamento di stirpe significa anche questo, che in forza di tradizione della stirpe normanna e dei diritti di conquista normanni, è inquieta e che invece con un nuovo sovrano deve cedere. Non a caso, e qui mi permetto di intervenire, non a caso, tu hai giustamente ricordato Pietro da Eboli, che è una fonte malfida da una parte e nello stesso tempo una fonte estremamente significativa per quello che comporta la, diciamo così, la opinione pubblica, la opinione, le idee correnti. E nell'opinione pubblica, in fondo, si tende a, attraverso Tancredi di Lecce, a dire che questi normanni sono brutti, sono ormai spenti, non hanno più forza, non hanno più sentimento civile, sono una razza degradata, che invece Enrico VI è il sangue nuovo che rimetterà a posto tutto, soprattutto quando gli nasce poi, come è tra il secondo e il terzo libro del poema di Pietro, quando nasce questo prodigio che ha il meglio della stirpe normanna, della stirpe regia, e il meglio della stirpe degli Staufer. Diciamo, das gesagt, Wilhelm der Zweite und auch sein Vorgänger Wilhelm der Erste hatten gefühlt, wie unruhig diese Baronen waren. Und es ist nicht ein Zufall, dass im Gedicht von Petrus von Eboli wird die normannische Partei mit Beschreibungen angezeigt, die immer das unterstreichen, das heißt, der König Tancredi ist ein kleines Monstrum, er ist hässlich, er ist nicht gesund, und so die Normannen. Sinus. Come? Sinus. Sinus, sì. Er ist eine Affe, und so weiter. Und die Normannen sind nicht mehr eine starke, eine edle Rasse, die einzige, die noch edel sind natürlich, es ist natürlich die königliche Dynastie, und diese königliche Dynastie hat das Glück gehabt, mit einer anderen hervorragende Dynastie sich vereinen, das heißt die Staufer. Und im dritten Buch des Gedichts von Petrus von Eboli wird das stark gesagt, endlich mit dem kleinen Friedrich von Zweiten, haben wir endlich den edlen Spross, die eine neue Rasse, eine neue Dynastie dem Königreich Sizilien geben wird. Ja, ich kenne die süditalienische Historiografie nicht so genau, aber ich frage mich, konnte man 1184 schon wirklich von dem Bewusstsein bei Wilhelm II. Sprechen, dass er keine Nachkommen haben würde? Ja? Se si può dire che in base ai dati storiografici di cui disponiamo, se si può dire che già quando si discute di questo matrimonio, Guglielmo II poteva essere già sicuro che non avrebbe avuto discendenti. Sì. Ich als Mann möchte ich eine Kleinigkeit sagen. Einige Bekenntnisse werden nicht in der Geschichte bleiben. Io credo una cosa, che la famiglia dei Normanni, dei re Normanni, doveva avere qualche età. Sì, è vero anche questo. Poco numerosa. E ci sono principi morti. Bambini, sì. Ora, i bambini morivano molti, la mortalità infantile era molto alta, ma era una famiglia poco numerosa. Dovevano avere qualche tale, avrei quasi l'impressione che avessero la tubercolosi che girava, ecco. Ma sono troppo piccoli. È in contrasto con la tradizione originaria delle famiglie normanne, le quali come sono state anzitutto recensite in un catalogo, una sorta di censimento che ne ha fatto il Ménager, cioè tutte le famiglie normanne venute nell'Italia meridionale con mogli e figli, eccetera. Ora, la prima generazione normanna, quella venuta dalla Francia, dalla Normandia, sia il ramo dei Drengot, sia il ramo degli Hauteville, sono di una figliolanza veramente impressionante. Poi hanno non solo una moglie, una seconda moglie, e hanno figli e figli. Tanto è vero che la conquista normanna fu possibile in quanto nelle varie terre che occupavano potevano mettere un membro della propria famiglia, cioè l'unità delle due famiglie, la famiglia Drencot, la famiglia Drencot, permise la realizzazione della conquista. Ora, l'ipotesi della professoressa Fasoli che avessero qualche tara mi fa supporre che la terza generazione soltanto la terza generazione siano malati è un'ipotesi suggestiva, ma non riesco a capire. È vero però quello che sottolinea il fatto che avessero pochi figli, un altro Tancredi Wilhelm der Erste hatte ich meine drei oder vier Söhne, vier Kinder vor fünf Jahren verloren. Das ist ohne Zweifel. Das habe ich mit dem biografischen, ci sono tutti nel dizionario biografico, devi aver fatto proprio te questi principini morti. Mi sa di sì. No, io sono chiuso col biografico. Bada che sono Altavilla, Sono Altavilla. Dopo vedremo. Comunque c'è una sigla del Ménager in mezzo. Comunque. Vielleicht mit dem mit Wilhelm dem Ersten kommt eine Krankheit hinzu. Es ist eine Möglichkeit natürlich. Ja, es fällt nur auf, dass in der deutschen Historiografie weder die Verlobung noch die Hochzeit in Mailand besonderen Niederschlag findet. Besonderen Niederschlag findet, besonders erwähnt wird. Das müsste doch eigentlich der Fall sein, wenn man sich vorstellt, dass es zu dieser sensationellen Eheverbindung zwischen Normannen und Staufern gekommen ist. Also ich bin von der Seite her zu dieser Frage gekommen. Dunque viene notato che nella storiografia germanica questo matrimonio, se ho ben capito, questo matrimonio viene indicato come in fondo una Niederlage, una sconfitta della... Allora ho sentito male. Viene ricordato appena, ecco. Cioè non si sa se è una grande importanza. Però ricorderanno la conquista del regno da parte di Enrico VI. Qualche... Ma dove sono finiti i nostri colleghi? Qualche altra domanda? Prego. Sì, io volevo fare una domanda sempre su questa nuova parentela che inizia. Lei, il professor Manselli, aveva detto una parola che ho pensato prima, la parola sangue. Cioè, volevo domandare di questa programmazione la famiglia ammalata a fare inerentemente perché i bambini muoiono. Si parla delle considerazioni di sangue, io volevo dire, dal punto di vista, non so se dire medico... Ma sono considerazioni, sono ipotesi di oggi. Sì, ma io voglio domandare adesso, nelle fonti, si parla del sangue nobiliare, perché questo sangue, a parte che poteva, come pensiamo noi, rinfrescare questa stirpe, si fanno anche delle considerazioni su questo è il sangue più nobile, il sangue più degno o una cosa del genere. Si fanno già questioni sul sangue nobiliare in questo periodo in quelle fonti dell'Italia meridionale o no? Questo... No, posso rispondere, sì. Prego. Das heißt, in welchem Sinne sprechen wir Abyss und sprechen wir mit dem Wort Sangue, das heißt Blut, in biologischen Sinn oder in Sinne in adeligem Sinn? Wenn das in Süditalienische Quellen express klar erwähnt ist. Ma io su questo non ho dubbi, non solo nell'Italia meridionale, ma in tutta la storia delle famiglie feudali, il sangue è veramente il richiamo fondamentale a una posizione di preminenza, a una destinazione superiore, a un destino, diciamo così, di dominio, che sembra proprio un fatto condizionante. Cioè le famiglie feudali si selezionavano e si sposavano fra loro, mantenendo sempre, per quanto era possibile, una purezza di sangue della propria stirpe. Del resto, io ho studiato una famiglia particolare, la famiglia dei conti e dei principi di Capua, e devo notare che questa famiglia si è prolungata nel tempo dal IX secolo, precisamente dall'817, fino al 1070. Nelle 70 e poi successivamente caduti ci sono ancora dei membri. E non solo l'elemento sangue, ma anche il tipo onomastico, cioè la famiglia signorile si affidava nel tempo alla successione non solo al sangue, ma anche a una tipizzazione di onomastica che rimaneva sempre ferma e caratteristica in una dinastia. Quindi io facilmente dai nomi riesco a capire se era, non so, del ramo di Benevento o del ramo dei Salernitani, i Guaimario sono di Salerno, gli Adelchi e i Radelchi sono di Benevento, i Landolfo e gli Atenolfo e i Pandolfo sono di Capua, i Mansione eccetera sono di Amalfi, i Sergio, tutta la successione dei Sergio sono di Napoli e così via. Cioè, sia il sangue sia il nome contribuivano a mantenere una discendenza, diciamo, pura, non sul piano razzistico, ma sul piano, diremmo, ideale. Del resto, il sangue era, questo poi nell'Italia medievale diffusissimo, aveva un culto particolare. Cioè il sangue, nella tradizione cultuale, aveva, perlomeno nell'ambiente meridionale, un legame con le antiche tradizioni e soprattutto col mondo germanico, che al sangue assumeva un particolare significato. Se lei va nell'Italia meridionale non trova soltanto il sangue di San Gennaro, di cui tutti parliamo e sappiamo, ma troviamo numerosissimi santuari in cui c'è sangue che si liquefa o comunque si vella. San Pantaleone, per esempio, nessuno lo sa, ma ad Atrani San Pantaleone, di questo santo c'è un'ampolla, è vero che come al solito in certe festività si dice, comunque vero, c'è una venerazione per questo santo. Santa Patrizia, per esempio, è un'altra santa di cui, quindi io penso che il sangue, indipendentemente dal significato biologico, anche perché nel Medioevo il sangue veniva ritenuto la sostanza vitale, non era il cuore, ma il sangue quello che rappresenta. Quindi il sangue ha un'importanza fondamentale, va bene? Poi forse anche, non solo una parola, poi forse non so, accanto a questi problemi relativi alla famiglia, al sangue in questo senso, c'è anche un problema patrimoniale, perché quello poi è collegato, si capisce. Ma credo che in Germania ci siano degli studi particolari su questo. Comunque, das Problem des Blutes ist wirklich bewusst in italienischen, in Familien, in adligen Familien Süditaliens. So haben wir einige Familien, die diesen Bewusstsein der Reinheit des Blutes einigermaßen behüten und verteidigen mit guten Hochzeiten, mit adligen Hochzeiten. Und das wird auch mit sozusagen mit der Wichtigkeit des Namens. Namen und Blut sind zwei verschiedene, aber im Zusammenhang lebende Elemente. Und nach der Meinung von Professor Cilento müssen wir vom Blut nicht im rassistischen Sinne sprechen, aber nach der Überlieferung der alten germanischen Tradition. Weil in Süditalien waren die Longobarden wirklich anwesend und verbreitet, und auch weil wir zum Beispiel haben in Süditalien die Verehrung von Blut von mehreren Heiligen. Das Blut von St. Januar ist weltbekannt, aber mehrere und mehrere andere Blutreliquien sind in ganzen Süditalien verbreitet und verehrt, zum Beispiel San Pantaleone, Santa Patrizia und noch andere, die in verschiedenen Weisen Wunder machen oder sich verschmelzen und so weiter. C'è ancora? Se qualcosa, ma è molto marginale, lo riguarda Federico Barbaro. Va bene, ma non... cioè lei ha parlato di uno di Querfurt, che già nel X secolo ha vinto questa politica meridionalistica dell'impero. Meridionale. Sarà meridionale. In quel passo però si critica una campagna che ha avuto un esito nefasto, come la città. Allora, è un lamento sulla strage di questa gioventù tedesca, o è già, come fa pensare la provenienza, la biografia di Bruno Ricordo, la sua attività di biografo di Sant'Alberto, una concezione che vede nel viaggio verso il sud, diciamo, un allontanamento dagli interessi veri dell'impero verso l'est. Cioè, Sant'Alberto rappresentava il drunk Nack Osten, e quindi io leggo proprio nella vita di Sant'Alberto, sia in quella scritta da Bruno di Perfut, sia anche in quella scritta dal Canapario, Giovanni Canapario, che leggo questo, poiché furono martiri sia Sant'Alberto, sia poi lo stesso dopo che venne da Sant'Alberto, insomma, anche voglio dire l'espansione della Germania verso il mondo slavo era, diciamo, di maggiore interesse per l'impero, cioè si guardava a questo mondo come qualche cosa anzitutto di più prossimo e poi di più legato a quella che poteva essere l'espansione normanna. Tenga conto poi della geografia del tempo. La geografia del tempo non dava delle dimensioni precise, non si sapeva dove era Napoli, non si sapeva dove era Bari, e però raggiungevano sia Napoli che Bari. Perché? Perché avevano le guide, i vari monaci, di Agnello Ravennate, il monaco che indica l'itinerario, si trovano anche nel sud, però era un mondo lontano, un mondo che non era così vicino come invece era il mondo vicino al mondo germanico, il mondo degli slavi, l'espansione. Ottone prima dà inizio con la battaglia della Resta appunto a questa via nuova che si apre alla Germania. Io penso che in Bruno ci fosse intenzionale questa denuncia di far andare a morire tanti guerrieri e cavalieri in questo posto che non si sapeva dove fosse, invece di mantenerlo lì nel mondo dell'est. Penso che questo sia. Fräulein Baronias, das befragt. Das heißt, in Bruno di Querfurt finden wir eine Klage sozusagen für die junge Deutschen, die in südlichen Ländern sterben, und man versteht nicht warum. In dem wäre es wichtiger wäre, dass nach Osten die Deutschen gingen und so weiter. Professor Cilento hat antwortet, dass er im Allgemeinen ist einverstanden und hat das hinzugefügt. Das heißt, Bruno di Querfurt und die anderen Historiker seiner Zeit haben immer eine nicht vollkommene Idee der Länder, der verschiedenen Regionen Europas. Und so ist Süditalien so entfernt, einigermaßen so entfernt, wie eine Fantasie darstellen kann. Und das gibt solchen Expeditionen den Sinn einer Unnützlichkeit, die natürlich in der Tat nicht hatten. Ancora qualche osservazione? Sono io qua contento. Io mi scuso perché continuamente prendo la parola, ma d'altra parte io... È meglio prendere la parola che andarsene. Vabbè, insomma. Comunque, io non sono tanto d'accordo con l'appello all'ordine che ci è stato fatto prima a proposito del fatto che non discutiamo di Federico Barbarossa, ma discutiamo di tutto il resto. Io invece sono. No, era un'osservazione sì, fatta in piena amichevolezza, non era un richiamo all'ordine. Tanto amichevolmente sto cercando di dire qual è la mia opinione. Perché credo che la figura di Federico Barbarossa tutta sia stata sufficientemente, o perlomeno fino a questo momento, ampiamente illustrata da quella gloriosa storiografia di cui abbiamo sentito parlare nei giorni passati. E che se c'è un argomento sul quale credo che sia opportuno riflettere, e d'altra parte l'organizzazione di questo seminario mi pare che avesse proprio questa intenzione, o perlomeno scorrendo il programma, e mi pare che invece fosse proprio questo il punto su cui credo sia opportuno riflettere, proprio su quello che c'è attorno a Federico, su quello che ha dato a Federico la possibilità di fare certe azioni o di non farle, di svolgere una certa politica o da solo o con l'appoggio di tutta una serie di personaggi di cui abbiamo sentito parlare. Quindi io sono invece, d'altra parte, mi pare che anche gli intervenuti condividano questa posizione, proprio perché abbiamo bisogno di chiarire le cose. E devo, quindi io non ho da porre domande al professore Cirento, soprattutto perché sono molto ignorante delle cose che lui mi ha raccontato e non ho ancora avuto il tempo per riflettere sopra, per poter svolgere una domanda chiara, se non però domandandogli se una cosa che forse in parte mi pare abbia già detto qualcosa nella sua relazione, cioè insomma in fin dei conti in un certo senso il degrado socio-economico politico dell'Italia meridionale ha origini non solamente nel secolo scorso o in quell'altro, insomma. Mi pare che si possa prendere proprio da tutte le situazioni che si sono accavallate l'una sull'altra, anche il rapporto alla concomitanza di etnie differenti, di culture diverse, di tutto sommato di altre entità politiche che fanno nei confronti di Italia meridionale una politica che io adesso non l'ho studiata, però così mi sembra di capire che è certamente non indirizzata verso lo sviluppo, ma è indirizzata verso una sorta di prelievo fiscale per esempio fortissimo in età normanna, altrettanto in età sveva, in età federiciana c'è il collasso, ecco, da questo punto di vista. Perciò credo che sia interessante raccogliere questa antica eredità. È una domanda interessante. E l'unico momento bello è stato il momento arabo, di cui abbiamo i documenti in età normanna. È una domanda interessante, posso dire? Sì. Sono arabi, quando c'era stato, comunque non va bene. Ma rispondi così, poi dopo traduco. La domanda è molto interessante. Devo dire che io, per giustificare il mio mestiere di storico nel Sud e per il Sud, perché bisogna dare una giustificazione a quello che facciamo, io ho spesso fatto interventi in congressi di meridionalisti e ho contestato fortemente che la genesi della questione meridionale, della così grossa questione meridionale, possa soltanto risalire soltanto al dopo l'unità. Io penso che la regressione socio-economica del Sud ha moltissime radici nel passato più lontano. Penso soprattutto a quel momento in cui, con l'avvento angioino, si crea una situazione così nuova, attraverso soprattutto il loro guelfismo, tendente a distruggere non solo la cultura originaria dell'Italia meridionale, ma a distruggere ogni attività di vita municipale, a dare un prepotere ai baroni addirittura inimmaginabile. Ci sono i capitoli di San Martino di Finita del 1294 che sono, come dicono i giuristi, sono simili alla Magna Carta Libertatum. Bene, questi capitoli di San Martino di Finita in Calabria, concessi dai feudatari da Carlo II d'Angio, sono il documento attraverso il quale il regno viene consegnato interamente alla feudalità, non solo laica, ma soprattutto ecclesiastica. Il regno sarà un regno in cui le eresie, che sono un lievito sociale, come abbiamo appreso, vengono totalmente cancellate. Anche Federico II, che aveva avuto la possibilità di accogliere i valdesi, di far sistemare i valdesi in alcuni posti della Calabria, Guardia Piemontese, eccetera, questi valdesi saranno perseguitati e sterminati. Il voto che sciolse Carlo II d'Angio per ripagare Bonifacio VIII nell'anno giubilare fu la distruzione nel giorno del 15 agosto della colonia dei Saraceni di Lucera, che fu uno sterminio che sradicò dal tavoliere delle Puglie una colonia di una vitalità intensa che era stata visitata pochi anni prima da un ambasciatore del califfo Baybars, il quale era rimasto ammirato di questa Lucera, dove esisteva una casa del sapere molto simile a quella di Baghdad, cioè era Manfredi che aveva. Ora, questa vitalità che aveva l'Italia meridionale, quella Sicilia che gli arabi avevano resa irrigua, e quell'Italia meridionale con le città pugliesi rivolte all'Oriente, con le città della Campania anch'esse molto attive, tutto questo scompare, non per opera dell'impero, io l'ho detto, l'impero per accessione interviene in questo fatto, ma per le conseguenze successive. In fondo sia il regno normanno che il regno svevo aggravano la crisi, però la crisi diventa definitiva e totale con l'avvento degli angeli. Quindi il problema della regressione socio-economica del Sud va arretrato. Siccome gli storici meridionalisti non vogliono risalire al Medioevo perché è un cammino spinoso, loro cominciano, c'è un libro di un certo Carlo, vero, che appunto polemizza con questa, che esclude assolutamente, perché dice che le condizioni che intervengono dopo il 1860-62 sono tali che non possono in nessun modo essere paragonabili alle situazioni precedenti. In sostanza, quando anche diciamo che l'Italia meridionale in epoca angioina o in epoca aragonese vive il momento felice della cultura umanistica napoletana, l'umanesimo napoletano, quando ci vantiamo degli stessi illuministi napoletani, che certamente si collocano nel contesto europeo, dimentichiamo però che ci sono contemporaneamente, per esempio, dei vescovi che scrivono dei trattatelli meschini di storia ecclesiastica e fanno cominciare la storia da Adamo ed Eva, col solito schema provvidenzialistico e agostiniano. Voglio dire, cioè, che neppure un ette di quel pensiero altissimo che fu quello degli illuministi napoletani rifluì nel contesto da cui esso era emerso, perché erano degli uomini di alto ingegno, ma vivevano nella cosiddetta loro repubblica separata delle lettere. Ora, questo io ringrazio la collega perché mi ha dato modo di, come dire, di comunicare anche questa mia questo mio atteggiamento nei confronti di uno dei problemi che poi è fondamentale per capire certe situazioni di oggi. Certi atteggiamenti mentali dell'uomo del sud hanno origine non nell'età così recente, ma in questa età così antica. I federali si usano fasti di intervenzione Bocchi, Var, Darüber, Orientiert, Das heißt, wir haben immer von Friedrich Barbarossa gesprochen, alle Probleme, die wir in diesen Zeiten betrachten, sind alle Probleme, die die Persönlichkeit Friedrich Barbarossas erklären und einigermaßen verständlicher machen. Nachher ist das Problem sich verbreitet, hat das Problem sich verbreitet und andere Elemente in Betracht genommen. Das heißt, welche sozial und ökonomische Bedeutung hat diese diese Königreich von Heinrich der Sechsten, von Manfreds und dann von der Angevin, welche Bedeutung hat diese neue Richtung der Geschichte in Süditaliens gehabt? Und in welchem Sinn können wir von einem Krisis Süditaliens sprechen? Professor Cilento hat gesagt, dass im ersten Teil war vollkommen einverstanden, aber über die Probleme der wirtschaftlichen Situation Italiens wollte er das unterstreichen. Das heißt, mit dem angevinischen Königen ist eine große Wende in der Geschichte Süditaliens geschehen. Er hat in diesem Sinn von den Statuten von Santa Maria definita von Karl dem Zweiten von Anjou gesprochen, wo das Königreich Siziliens, Süditaliens, Sizilien ist schon in den Händen von aragonesischen Königen, Süditalien wird der Feudalität praktisch hingegeben, die alle Rechte sozusagen für sich reservierten. Und hat hinzugefügt, dass natürlich die Probleme und die Probleme, die die sogenannte süditalienische Frage formen, sind Probleme, die nicht mit den letzten Jahrzehnten zu tun haben, wie eine sehr verbreitete Meinung hält, aber sind Probleme, die hat Jahrhunderte und Jahrhunderte lang gedauert. Diese Krise ist mit den Angevinischen, nach Meinung Professor Cilento, mit den Angevinischen angefangen und dann wurde immer mehr vertieft, weil die verschiedenen Dynastien, die in Süditalien gekommen sind, haben die Interesse Süditaliens nicht so betrachtet, wie dieses Land verdiente. Und man kann natürlich nicht von einer neueren Krise sprechen, von einer modernen Krise sprechen. In der Tat ist sie sehr alt und die Lösung solcher Probleme ist sehr schwer, weil sehr lange gedauert hat. Okay. Ecco, io prima di tutto volevo ringraziare il professor Cilento per questa conferenza, che a me è stata particolarmente utile, perché devo confessare la mia pressoché completa ignoranza di questo aspetto della, sia della politica imperiale di Federico che appunto della storia meridionale. E una cosa mi ha colpito di tutta questa, questo lo dico anche quindi per giustificare se la banalità del mio intervento può parere banale e da dubitare anche al fatto di essere riflettuto in questo brevissimo tempo. Una cosa mi ha colpito quando il professor Cilento ha così esemplificato questa politica matrimoniale che viene condotta a partire da Carlo Magno, un po' da tutti gli imperatori franco-germanici da una parte e anche dai sovrani normanni come Roberto Guiscardo, Guglielmo II, eccetera. I quali però tutti, mi sembra, almeno se non tutti nella stragrande maggioranza, sono alla ricerca di un'alleanza con l'impero bizantino, cioè Carlo Magno prima, gli Ottoni più tardi, lo stesso Federico che cerca di sposare una nipote di Emanuele Comneno e dall'altra parte Roberto il Guiscardo che tenta un matrimonio della propria figlia con Costantino, figlio di Michele VII, e più tardi Guglielmo II che cerca di sposare una figlia ancora di un imperatore bizantino. Ecco, mi ha fatto sorgere questa riflessione, cioè che tutte e due queste forze, l'impero franco-germanico da una parte e il regno normanno dall'altra, per motivi diversi, si ponessero in diretto antagonismo con l'impero di Bisanzio. L'impero di Federico l'abbiamo visto già altre volte, perché così vedeva nell'impero d'Oriente il contraltare e diciamo il concorrente di quello che lui voleva rappresentare, cioè la continuità dell'impero romano che si era trasformato in Sacro Romano Impero, eccetera, adesso scusatemi l'assoluta improprietà del linguaggio, no. Abbiate comprensione. Dall'altra parte il regno normanno che per evidente vicinanza aveva a che fare sempre con l'impero bizantino. Ora, alla fine che cosa succede? Che in realtà l'alleanza matrimoniale avviene tra gli altri due, escludendo Bisanzio. E in questo, e la storia poi ci dirà che in effetti Bisanzio non riuscirà più a rimpossessarsi dell'Italia meridionale, è una partita chiusa, in questo senso. Tutto questo discorso per arrivare alla conclusione, che era questa. Vero quello che lei diceva, quindi che lo slancio verso il Mediterraneo era antico all'interno dell'impero franco-germanico, cioè non è una novità di Federico e non è nemmeno semplicemente e così l'avere colto un'opportunità che lì si era presentata, ma rispondeva a una precisa esigenza, a una precisa tradizione di interessi. Vero tutto questo. Però io mi domando anche se appunto in questa alleanza matrimoniale che poi alla fine Federico conclude e che mi sembra si distacchi dal tipo di alleanza matrimoniale che fino a poco tempo prima aveva cercato di contrarre con Bisanzio, non c'è anche una certa intelligenza politica da parte dell'imperatore di tenere conto di una nuova forza, cioè nuova relativamente, cioè il regno normanno era consolidato al tempo, non era che si fosse appena formato, ma certamente rispetto alla forza di tradizione e anche alle dimensioni geografiche dell'impero di Bisanzio poteva essere considerata, mi sembra, nuova. Ecco, era questo che dicevo, non c'è anche così, oserei dire, anche se il termine non mi sembra molto appropriato, ma non mi viene in mente un altro migliore, una certa modernità di pensiero politico di Federico nel tener conto di questa realtà e di questa appunto realtà nuova, mi sembra, per quanto poteva essere invece consolidata a Bisanzio, e distrutta Arna. Cioè, non so se si è capito. Cioè, rispondo prima. No, no. Meglio che dico prima. Unsere Kollegin hat das unterstrichen, das heißt in Süditalien, diese Heiratspolitik seit Karl dem Großen ist eine Politik, in der überhaupt Wichtigkeit hat, was die Beziehungen zwischen Kaisertum von Ost und Kaisertum von West betrachtet. Karl der Große will seine Tochter mit einem byzantinischen Prinz heiraten lassen, und dann er selbst will die Kaiserin Irene heiraten und so weiter. Können wir also nach mehrere Nicht-Entscheidungen, nach mehrere und mehrere Fallimento. Ja, von dieser Heiratspolitik. Scusatemi, ma sono un po' inquieto. Es ist nicht möglich daran denken, dass Friedrich Barbarossa, die eine neue Realität gesehen hat, die Realität des normannischen Königtums, können wir nicht daran denken, dass am Ende Friedrich Barbarossa diese neue Realität gesehen hat und benutzt hat mit den Hochzeiten seines Sohnes mit dieser normannischen Prinzessin. Ecco, allora io sottolineo il fatto che ho detto che il modulo è quello, però le situazioni storiche sono diversissime. E allora l'obiettivo fra i due imperi è l'Italia meridionale. Quando, e quindi l'impero bizantino tende ad affermarvi la sua presenza, l'impero occidentale invece ad acquistarlo. Quando invece si inseriscono i normanni, per i bizantini c'è il problema della riconquista del sud, e per l'impero occidentale rimane la lotta contro il regno normanno, che è subentrata alla situazione storica precedente. Quindi abbiamo in questo secondo contesto l'avvicinamento dei due imperi contro i normanni e da ultimo la vittoria dell'impero occidentale che acquista il regno normanno con un'intelligenza politica, e questa mi pare da sottolineare, l'ha detto bene la signora Federico primo, veramente un personaggio così celebrato che è inutile che aggiunga parola, però la intelligenza politica, la previsione storica che ha fatto in questo caso è risultata positiva e direi positivamente immediata. Non solo, se si tiene conto poi che Federico II vorrà sperimentare un programma politico in questo regno di Sicilia che ha acquistato, diventa molto importante il fatto che questa volta separandoci dal problema dell'impero, diventa molto importante che la Sicilia diventi per l'impero un'occasione particolare. Herr Cilento hat solche Antwort gegeben, die zwei Kaisertümer haben um das Königtum Sizilien bekämpft. Und am Ende hat das Kaisertum Barbarossas diesen Kampf sozusagen besiegt und darüber hat Barbarossa seine politische Verständnis gezeigt. Er hat ohne Schwierigkeit das betrachtet, das verstanden, dass Königreich Sizilien konnte eine Integrierung des Kaisertums werden und in diesem Fall konnte er das Kaisertum Byzanz beiseite lassen. Sono le 6:41, i nostri colleghi non sono più venuti e credo che noi possiamo anche risolvere la nostra giornata di oggi ringraziando i colleghi che stamattina, il collega Herkenrath che stamattina ha parlato e quanti sono intervenuti nella discussione e questa sera ringraziare il professor Cilento per la sua, mi sia concesso dire, magistrale lezione e per la discussione che ne è seguita, discussione che grazie a Dio è stata non meno impegnata ed importante delle precedenti. Noi ci stiamo, se mi permettete trattenermi ancora un minuto, noi ci stiamo accostando verso i problemi di fondo, che verranno domani in piena, come dire, evidenza. Da una parte con la professoressa Fasoli che ci porrà il problema e, come dire, ci indicherà le vie di una soluzione per quanto riguarda aspirazioni cittadine e volontà imperiale. Cioè ci troveremo di fronte ad uno dei problemi essenziali della nostra riunione, dei nostri giorni. Il problema essenziale che è quello del vedere, del porci il problema di che cosa voleva Federico, che cosa poteva raggiungere Federico e quali forze facilitavano o ostacolavano la realizzazione della sua volontà. Cioè noi ci troviamo di fronte al problema della personalità di Federico come, diremmo noi, forza operante nella storia tra fattori storici. Nei giorni passati abbiamo visto quali mezzi aveva a sua disposizione Federico, su quali forze poteva contare Federico. Domani noi vedremo quali sono, vorrei dire, i condizionamenti, quelli politici da una parte, domattina, quelli economici, dall'altra, domani sera, e quindi, in un certo senso, il cerchio si chiude. E si chiude anche perché fino ad oggi, ma mi auguro, non ho bisogno neanche di dirlo, anche domani, i problemi hanno avuto, almeno finora, concretezza di risposte e, aggiungo, chiarezza di discussione. Ich werde alles zusammenfassen.